Eccoci qua, buonasera a tutti. Siamo in onda con I Colori dell'Anima. Siamo sempre qui in studio, come al solito, Cristina e Barbara. Ciao Barbara. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, siamo, come ben sapete, sulle onde 101.9. Se volete seguirci via internet potete seguirci sul sito www.radioalma.eu e di là potete scegliere poi la radio da ascoltare, quindi cliccate sui colori dell'anima. E invece se ci volete chiamare, il numero di telefono è lo 02-345-2656. Eccoci qua. Allora, siamo pronti, Barbara? Come va, Barbara? Pronti? Tutto bene, ancora qua in tecnica, mi sto organizzando un po', però tutto bene. Ok, questa sera Barbara in regia. Io benissimo, sì, molto bene. Allora, rifacciamo un po' un passo indietro alla settimana scorsa. Non era proprio la settimana scorsa, la nostra ultima puntata, 3 settimane fa, abbiamo parlato del geocaching. Giusto? Esatto. Allora, vediamo, ci eravamo lasciati con una con l'impegno di andare a cercare il geocache che Tom aveva nascosto. Spiega un attimo, forse, cos'è il geocache in 3 parole? In 3 parole? È una caccia al tesoro. Brava. Proprio 3 parole. Proprio 3 parole. E allora, tu sei andata a trovarlo? Io ci ho provato ma non ci sono riuscita. No, no. Io invece sì, l'ho trovato e mi sono mangiata i cioccolatini. Salutiamo l'equipe di... No, io volevo un sapore. Un lapsus. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Buona serata. E, quindi Barbara, dicevamo, hai trovato il geocache, che cosa c'è trovato? A parte i cioccolatini? I cioccolatini e poi c'erano dei sticker dentro, e un piccolo foglio per scrivermi, mi sono scritta. E basta, credo. E una penna, beh. Per scriversi? Sì, per scrivermi. Ok. Quindi ti sei emozionata quando hai trovato questo geocache? Sì. E ho visto che dal nostro blog la trasmissione è piaciuta a parecchi. La trasmissione è piaciuta a tanti, quella su geocaching, quindi abbiamo scoperto insieme qualcosa di interessante. Ma che ne dici se lanciamo un po' di musica questa sera? Buonissima idea, lanciamo Max Gazzè, Mentre dormi. Va bene. Eccoci qua, rieccoci, siamo in linea. Siamo sempre con I Colori dell'Anima, come abbiamo appena ascoltato dal nostro jingle. Allora, introduciamo l'argomento di stasera, Barbara. Allora, stasera abbiamo deciso di parlare di un tema un po' particolare che ci sta abbastanza a cuore, soprattutto a me e te, Barbara. Giusto. Parliamo infatti degli italiani emigrati dall'Italia. Sì. Per tutto il mondo. Quindi abbiamo detto Italia immigrazione. Parliamo degli italiani che sono sparsi per tutto il mondo, che come noi si spostano, si sono spostati da quando l'Italia è stata creata, da quando l'Italia è stata unificata nel 1861. Questi italiani che vanno sempre su, giù, da tutte le parti del mondo. E questa sera ci concentriamo su alcuni paesi che sono un pochino esotici. Giusto. Che non sono i paesi sempre i soliti, America, Francia, su. Andiamo in altri continenti. Però prima di svelare quali sono i continenti, scegliamo il colore della serata. Allora, il colore, siccome abbiamo pensato del viaggio, dell'emigrazione, forse anche un po' l'emigrazione storica, pensando al treno, che prima si emigrava col treno, abbiamo pensato che il colore dei binari, grazie. Che colore hanno i binari? Beh, i binari sono scuri, sono in ferro, però quando sono puliti sono grigi. Grigi. Quindi il colore di questa sera è il grigio. Grigio, giusto. Un grigio, però è un grigio, non è il grigio triste di Bruxelles, ma appunto è il grigio dinamico del treno, sì, che si muove, che si sposta. Ok, quindi ricordiamo a tutti quanti, se volete partecipare a questa trasmissione, se volete contribuire, farci qualche domanda, potete chiamarci allo 02-345-2656. Perché penso che questa trasmissione, questo tema riguarda parecchi dei nostri ascoltatori, visto che gli italiani sono sempre in movimento, sempre in giro per il mondo. Allora, qual è il continente che abbiamo scelto stasera? Abbiamo scelto il continente che è un continente, non è molto lontano dall'Europa. No. Ed è l'Africa. Bra, ecco. Perché esiste un'immigrazione italiana anche in Africa. Sì. Esiste anche una parte della popolazione italiana che ha deciso di andare verso sud, invece di andare verso nord. Giusto, e da quando? Sapresti dirmi da quando, diciamo, già sempre o una cosa un po' più moderna, diciamo? No, esiste da tanto tempo, dipende da quali stati prendiamo in considerazione, però già dal dopoguerra, per esempio, sì, a causa dopo la Seconda Guerra Mondiale, alcuni soldati sono rimasti nei paesi dove erano stati deportati. Per esempio in Sudafrica c'era stato una deportazione di questi soldati che poi hanno deciso di rimanere, quindi è qualcosa che data da molto tempo, sì. E poi c'è sempre anche una emigrazione più recente, ma questa sera abbiamo con noi un rappresentante di questo nostro continente, un ospite internazionale. Di nuovo il secondo per continuare questa nuova cosa del nostro nuovo anno, diciamo, della nostra trasmissione I colori dell'anima. E quindi, sì, questa sera abbiamo invitato Adrien. Buonasera Adrien. Buonasera. Ciao. Allora Adrien, da dove vieni? Io vengo in Camerun. Dal Camerun, wow. E dove esattamente? Tu viens d'où exactement? En fait, je viens de Douala. Douala. Okay. Mais je peux aussi dire que je viens de Balmayo. D'accord. Quindi Adrien viene da Douala, che è la Douala è la capitale economica del Camerun. La capitale economica del Camerun. E poi hai anche vissuto a Balmayo. Allora, j'ai une question pour toi Adrien. Tu as compris qu'on donne une couleur à la soirée. Ouais. Quelle est la couleur que tu voudrais donner à cette soirée, à la radio? Sto chiedendo ad Adrien qual è il colore che darebbe al tema di stasera. La couleur jaune. Il giallo. Oh. Pourquoi? Beh, spontaneamente j'ai choisi la couleur jaune, c'est une belle couleur, non? Ah, ok. Oui, c'est vrai. Ok, il stesso. Sei istintivo. E forse perché vediamo qua un giallo davanti a noi. La porte, decorazione di Radio Alma. Tout ce qui rayonne est jaune, tout ce qui est ensoleillé est jaune, et voilà. Ok, perché okay, il giallo ti ricorda il sole. Sì. Tutto ciò che è bello. È giusto. Ok, va bene. Quindi abbiamo questo contrasto tra il grigio e il giallo. Parce que nous on a choisi le gris. Et pourquoi? Parce que le gris, c'est la couleur des rails du train. Oui. Et puisque ce soir, on parle de immigration, oui, et de mouvement, oui, on a choisi le gris qui nous rappelle le train. Ah, c'est bien. Ouais. Mais dans le gris, il peut y avoir du jaune aussi. Hein? Le gris, ce n'est pas seulement le blanc et le noir. Le gris peut aussi être le jaune, le rouge et le bleu. Ça donne le gris. Ah oui, ah, ça c'est vrai. Ecco, Adrien ci ha spiegato che nel grigio c'è anche il giallo. Parce que c'est quoi il giallo? Les trois couleurs primaires donnent le gris. Donc giallo, rosso et bleu. E blu, voilà, danno il grigio. Quindi ci ritroviamo. Ci ritroviamo lì. Che bello. Che bello. E abbiamo detto un po' tutto l'arcobaleno. Allora, ritornando a noi, prima di mandare un'altra canzone, faccio una piccola introduzione su un paese. Allora, perché parliamo della migrazione degli italiani? Perché è stato pubblicato il rapporto degli italiani nel mondo del 2012 dalla Fondazione Migrantes, Ricordiamo che questo rapporto degli italiani del mondo è pubblicato dal 2006, quindi ogni anno riusciamo ad avere tutte le informazioni sui piccoli omini tricolore che si spostano nel mondo, e sfogliandolo ieri sera il mio sguardo è caduto sul Gabon. E quanti tra di voi forse si chiedono che cos'è il Gabon? Come io prima. Allora, il Gabon è uno stato piccolo, n'est-ce pas Adrien? Ah oui, c'est un petit pays, je pense, de 1 500 000 habitants. Voilà. Quindi ci sono 1 milione di abitanti. 1,5 milioni di abitanti in Gabon. È un piccolo paese, molto sì. Piccolo. È un paese molto piccolo, però ci sono degli italiani che emigrano in Gabon. Allora io mi dicevo, ma perché gli italiani vanno in Gabon? E quindi ho letto tutto quello che... Insomma, ho letto l'articolo e devo dire che ho scoperto delle cose molto interessanti. Per esempio... parliamo un po', diamo un po' di numeri. Al 1 gennaio 2012 in Gabon ci sono 161 italiani. Wow. Il y a 161 italiani cette année au Gabon. Au Gabon. 67 femmine e 94 maschi. Ok. E un po'... Hanno proprio contato la persona? Sì, perché contano i nomi delle persone registrate al registro degli italiani all'estero. Mm-hmm. Quindi anche noi siamo contati. Sì, sì. E, quindi, perché gli italiani vanno in Gabon? Perché in Gabon è un paese molto ricco. Ricco di petrolio, di foreste e di manganese. Sì. N'est-ce pas, Adrien, confirma? Oui, le Gabon è quand même connu beaucoup pour son bois. Ah, sì, è molto conosciuto per la legna. Okay. C'è un problema, c'è un rumore... Io non lo sento. Ah, c'è un rumore nelle cuffie, non so. Spero che non si senta in radio. Vabbè, comunque continuiamo. Insomma, gli italiani vanno in Gabon perché è un paese ricco in cui è buono investire. Infatti, il Gabon è il paese che ha il reddito pro capite più alto in tutta l'Africa. Davvero? Sempre i riche, le Gabon. Quindi turismo, però... E il turismo è un paese dove c'è anche molto, si fa molto turismo? No, non credo, perché non... No, non è un paese molto turistico. Okay. Ci sono alcuni turisti che ci vanno, però non è la meta più proprio, scelta. No, ovviamente, perché sennò conoscevo di più, però se è così ricca, spesso il turismo arricchisce un po' un paese anche. Sì, però il Gabon è ricco proprio per le sue materie prime. Infatti pochi giovani emigrano dal Gabon. Sì. I gabonesi restano nel loro paese perché trovano lavoro e riescono, se escono vengono in Italia per esempio per formarsi, per studiare e poi ritornano per poter lavorare. Quindi è un paese africano, però un paese ricco. Adrien, eri già in Gabon tu? Sei già stato in Gabon? Sì, j'ai déjà été au Gabon, c'est ça? Beh, sì, j'ai été au Gabon e... J'ai passé une année de volontariat au Gabon. Oh wow, ouais. Tu as aimé? C'est un très beau pays. Quindi lui è stato già un anno, ha passato un anno di volontariato al Gabon e gli è piaciuto moltissimo. Mm-hmm. Et est-ce que tu as vraiment vu que la richesse du pays? J'ai pas trop vu la richesse du pays, mais on en parle beaucoup quand même. On en parle beaucoup de la richesse du Gabon, mais moi j'ai pas vu concrètement la richesse du pays. T'as mais... besoin d'aller banque. Mais ils ont quand même une richesse culturelle avec plusieurs ethnies. Mm. Et puis. Aspetta, traduciamo. Allora, ho chiesto ad Adrien se lui nel suo soggiorno in Gabon ha riscontrato questa ricchezza. E lui dice che non ha proprio visto molta ricchezza per le strade, però una grandissima ricchezza culturale e tante etnie. Sì, e ils ont aussi de belles plages e une très belle ville qu'on appelle Port-Gentil. Port-Gentil? Port-Gentil, oui. Ah. Et la capitale du Gabon... C'est Libreville. C'est Libreville, voilà. Et infatti, molti italiani... Ah, ti devi avvicinare di più al microfono quando parli. E la capitale del Gabon è Libreville ed è la città in cui ci sono il maggior numero di italiani, appunto. Okay. Ma forse stiamo parlando un po' tanto stasera. Facciamo una canzone. Mettiamo lanciamo un po' di canzone. Musica. Vai. lanciamo Jovanotti La bella vita. E rieccoci qui ai Colori dell'Anima con Cristina, io ciao. Barbara ciao. E Adrien, il nostro ciao. Ospite. Sì, Adrien è il nostro ospite. Il volume. Eccoci qua. Sta ripartendo la musica, voleva. Sì, riparte da sola. Ok, rieccoci qua sempre sui Colori dell'Anima. Ricordiamo a tutti quanti qual è il tema di questa sera. Il tema di questa sera. Ok, siamo sempre con i nostri problemi. No, non è un problema, è tutto a posto. Non ci senti? Sì, ti sento. Adesso okay. Sì. Ok, va bene. Allora, ricominciamo. Siamo sempre su I Colori dell'Anima e questa sera parliamo di Italia immigrazione. Brava. Cioè dell'emigrazione degli italiani nei posti un po' esotici, che non sono quelli più classici scelti da tutti, e stiamo parlando dell'Africa, in particolare del Gabon. Allora, io volevo dare qualche notizia interessante sul Gabon. Lo sapevate che l'italiano è una lingua insegnata nelle scuole gabonesi? Davvero, è una lingua come l'inglese, viene insegnato sì. L'inglese e l'italiano? Viene insegnato l'inglese e l'italiano, sì, perché il francese è la lingua ufficiale. Ok. E addirittura l'italiano è quasi più importante dell'inglese. Davvero? Sì, è documentato. Wow. E un'altra cosa molto un po' simpatica è che in Gabon si trova l'italiano, le scritte in italiano nelle strade, in italiano e in francese. Quindi è un po' come il Belgio, si trova il francese e il fiammingo, e lì si trova l'italiano e il francese. Che bello! Sì! Però hanno anche una loro lingua, proprio non il francese, ma una loro lingua gabonese, Adrien? Non lo so. Adrien, est-ce que au Gabon, on parle français? Sì, au Gabon, on parle français, c'est la langue officielle du Gabon. Est-ce qu'ils ont une autre langue aussi? Ils ont des langues locales. Oui. Ma la lingua ufficiale è il francese. Quindi ci sono molte lingue locali come in tutti i paesi africani. E toi tu parles la langue gabonese? Non, je parle la langue française quand je suis au Gabon. Ah, ok. Come un étranger. Voilà. Ok. Allora, un'altra cosa interessante che volevo dire. Allora, in Gabon ci sono delle aziende italiane. Eni, che è l'azienda petrolifera ormai conosciutissima, poi c'è anche un'azienda di Vicenza che si chiama Domenico Carà e Figli, che è un gruppo che lavora in legno, Carà Wood. Mm-hmm. E poi c'è un'altra azienda, gruppo italiano del settore delle costruzioni. A me mi fa molto strano immaginare delle aziende, delle persone che vanno lì, imparano l'italiano, così, vabbè, nel centro dell'Africa, vabbè. E poi un'altra cosa interessante è che quindi l'italiano è insegnato da circa 30 anni ed è insegnato anche in Camerun, è vero, Adrien? Sì. E l'italiano si studia a scuola in Camerun? Sì, sì, sì. Tu hai imparato l'italiano in Camerun? Sì, j'ai étudié l'italien à l'école. Sì, ha studiato l'italiano a scuola. Per quanti anni? J'ai étudié l'italien à l'école et puis je sais qu'il y a un centre culturel italien qui donne culturale. Aussi des cours de langue chaque année pour les étudiants italiens et pour les étudiants camerounais qui veulent aller étudier au Cameroun, en Italie. Quindi c'è un centro culturale italiano in Camerun, che dove, a Douala? Non, a Yaoundé. A Yaoundé. Yaoundé è la capitale del Camerun, okay. Dove si può imparare l'italiano e gli studenti possono imparare l'italiano per poi andare a studiare in Italia. E sapete che noi in Italia ogni anno riceviamo 400 studenti camerunesi all'anno, okay. Che vengono a studiare in Italia. Una cosa tipo Erasmus poi? Probabilmente sì, degli scambi okay. culturali. Allora, vogliamo cominciare a parlare del Camerun allora adesso? Andiamo, sì. Che vediamo qua, Adrien non può aspettare, vuole parlare. Adrien fremente vuole parlare della sua terra. Allora, Adrien, oui. Est-ce que tu veux, on a découvert que tu es du Cameroun. Oui. Alors, est-ce que tu veux, pourquoi tu es ici ce soir? Mais je suis là parce que vous m'avez invité. Va bene, facciamo una cosa un po' più diretta. Allora, Perché ti avevo invitato questa sera, Dian? Perché tu hai conosciuto, dove hai incontrato per la prima volta gli italiani? Où est-ce que tu as rencontré les Italiens pour la première fois? Bonne question. La première fois que j'ai rencontré les Italiens, mais c'était en Balmayo. En Balmayo. En Balmayo, c'est une ville périphérique de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Allora, ouais. Traduciamo. Quindi Adrien a conosciuto gli italiani in Camerun, en Balmayo, che è una piccola cittadina, e ha vissuto per tanti anni con gli italiani. Tu as vécu beaucoup de temps avec les Italiens. Ah oui, hein? Depuis 99 jusqu'à 2011. J'étais avec les Italiens. J'ai tout fait avec les Italiens. Che poverino. Quindi, allora, Adriana ha detto che dal 1989 fino al 2011 ha sempre vissuto con gli italiani, ha studiato nella scuola italiana, è sempre stato con gli italiani, quindi un po' italiano anche lui. Tu es un peu italien? Oui, je suis un peu italien. Tu te sens un peu italien? Je me sens un peu italien parce que je mange beaucoup de pasta. Ah! Mangia molta pasta, Adria. Va bene, quindi come al solito le cose per cui l'Italia è conosciuta all'estero sono sempre il cibo, la moda, la musica, il cinema. Ma allora, vogliamo parlare un po' del centro dove tu hai studiato, Adrien? Come si s'appelle? J'ai étudié à l'Institut de formation artistique. Mm-hmm. Qui a été créé par le centro d'orientamento educativo. Ok, voilà. Allora, il centro di orientamento educativo, faccio una piccola introduzione, è un'associazione di laici volontari che ha creato dei centri in molti paesi in tutto il mondo, quindi molti paesi africani come il Camerun, il Kenya, lo Zambia, la Repubblica del Congo, il Nigeria, il Cile, l'Ecuador, se andiamo in America, il Perù, il Venezuela. Quindi è una ONG che agisce, che lavora nel campo dell'educazione, quindi con scuole, formazioni. E Adrien ha studiato in questo centro di orientamento educativo. E che cosa hai studiato? L'arte. Ha studiato arte. Alors, quelle est ta profession, Adrien? Eh bien, je suis artiste. Ah, e quindi quello viene dalla scuola italiana ancora. L'artista in lui. Cosa fai di artista? Sono ceramico. Ceramista. Okay. Voilà, je suis céramiste. Hein. Voilà. Voilà. Artista di ceramica. Allora, qu'est-ce que tu as appris des Italiens? Ouf. J'ai beaucoup appris des Italiens. Un petit anecdote, quelque chose de... Mais dans le domaine scolaire, au niveau de l'école d'art, mais j'ai beaucoup appris parce que j'ai eu des professeurs italiens. Au niveau de la vie quotidienne, j'ai beaucoup appris parce que, voilà, j'étais tout le temps avec les Italiens et il y a eu des échanges, j'ai appris d'eux, ils ont aussi appris de moi. Ok, aspetta, traduciamo. Dunque, Adrien dice che ha imparato molto sia nel campo dell'arte, sia nella vita italiana, nella vita di tutti i giorni, quotidiana, ma dice anche che gli italiani hanno molto imparato da lui, quindi c'è uno scambio interculturale. Cosa pensi che gli italiani abbiano imparato da te? Qu'est-ce que les Italiens ont appris de toi? Ça, c'est un peu une question dure, hein? Se rappeler tout ce que les Italiens ont appris de moi. Bah, une chose. Mais préparer, les Italiens ont appris de moi parce que on passait quand même des moments dans la cuisine. Ah, gli italiani hanno imparato a cucinare da te. Sì, on passait quand même des moments dans la cuisine. Et puis, il y a ceux qui arrivaient et qui n'avaient jamais essayé de manipuler l'argile. Donc, ça dit faire un objet avec de l'argile. Et voilà, on passait des moments dans les ateliers à faire des petits coups de céramique. Quindi anche corsi di ceramica, perché Adrien, dopo aver studiato nella scuola di ceramica, poi hai anche lavorato in un atelier di ceramica, perché appunto questo centro COE, Centro per l'Orientamento Educativo, che ha sede centrale a Milano, vicino a Milano, oltre a formare delle scuole, ha anche creato degli atelier dove i giovani formati possono andare a lavorare. Allora, qual è l'obiettivo di queste scuole? È quello di formare nel campo più tecnico, pratico, proprio per avere un mestiere subito dopo la scuola, per poter lavorare, essere indipendenti. E quindi ci vuoi raccontare, descrivere un professore italiano che ti ricordi? Oui, je vais vous parler. Oui, un professeur très sympathique, c'est ça. Walter Pasqui. Ok. Walter Pasqua, Pasqui. Oui. Oui, Pasqui. Walter Pasqui, qui a été mon professeur de céramique, qui vient au Cameroun chaque année. Il doit avoir dans les 72 ans. Quindi donc, il suo professore Walter Pasqua, il suo professore di ceramica che viene in Camerun tutti gli anni e che ha 72 anni adesso. Donc chaque année il arrive au Cameroun et j'ai beaucoup appris de lui. E j'ai, Adrien ha imparato tanto da lui. J'ai beaucoup appris de lui, imagine depuis la première année jusqu'en classe de terminale et dans mon boulot il venait toujours. Donc j'ai beaucoup appris de lui. Il y a des techniques qu'il a transmises. Ah, quindi c'è stata una trasmissione di tecniche direttamente dal professore all'allievo. Voilà. Che bello! Mi fa venire la voglia di partire. Va bene, vogliamo ascoltare un po' di musica? Sì, e infatti adesso ho preparato Giacomo La Riccia, Povera Italia. Grande Giacomo. Buonasera a tutti di nuovo, siamo qui con I Colori dell'Anima, con Cristina, Adriana e Barbara. E me, e di nuovo riparte la musica. Lo spegniamo. All'insegna dell'indipendenza. Allora, questa sera stiamo parlando di Italia e migrazione, stiamo parlando dei viaggi, degli spostamenti in altri continenti, specialmente in Africa. Abbiamo parlato un po' del Gabon, dell'immigrazione degli italiani nel Gabon, che è soprattutto per motivi economici, anche imprenditoriali. Adesso stiamo parlando anche un po' degli italiani in Camerun, però ne stiamo parlando con una persona, un testimone diretto che ha vissuto a contatto con gli italiani. Adrien ha studiato in una scuola italiana e ha vissuto a contatto con gli italiani e ci voleva raccontare un episodio un po' culturale che ha vissuto nella sua scuola di Mbalmayou. A toi. Voilà, il y a quand même des choses qui ont quand même marqué mon passage dans ce centre italien. Okay. Comme des soirées italo-camerounaises qu'on organisait parfois. Voilà, quindi c'erano delle serate interculturali italo-camerunesi nel centro di Mbalmayou e c'est des soirées qui s'organisaient autour d'un feu, c'est-à-dire on était tout autour, les quindi Italiens. Quindi delle serate con un fuoco, tutti quanti intorno al fuoco. Et les Italiens, les Camerounais, et on était autour du feu. Et il y avait des balafons, ça c'est des instruments de musique. Strumento tipico camerounese, che si chiama balafon. Balafons. Si chiama in italiano? Balafon. Non so come si chiama in italiano. Lo so. Soit des balafons, soit des tam-tams. Sì. Insomma, tutti gli strumenti, quindi i tamburi voilà. E il balafon. Il balafon non so come si chiama in italiano. Boh, posso cercarlo su internet? Sì, vai. E poi Adrien. E les Italiens, eux, ils avaient leur guitare. Ah, gli italiani con la chitarra. Ils avaient leur guitare. E voilà, on faisait des échanges au niveau de la musique. Et au niveau de la danse, on dansait italien, on chantait italien. Si cantavano le canzoni italiane. Et eux, ils dansaient aussi camerounais, ils dansaient et ils chantaient camerounais. Gli italiani cantavano le canzoni in camerunese. E ti ricordi qualche canzone italiana? Je connais beaucoup de morceaux italiens. Oui. Si on me les met, je vais me ressouvenir. Ah oui. Mais commencer à chanter maintenant comme ça, ça c'est difficile. Un peu difficile. Ok. Adrien, rimandiamo un'altra volta per cantare. Ok. E poi c'era anche la cucina, no? Oui, il y avait aussi de la cuisine. Les Italiens apportaient des spaghettis, des macaronis et aussi la pizza. Mm-hmm. Je pense qu'il y a un plat principal pour eux. La pizza, sì. Sì, voilà, oui, c'est important. Ils apportaient la pizza. Et nous, généralement, quand les étrangers arrivent, on prépare la vipère. Ah, quindi i camerunesi, quando hanno degli ospiti, preparano le vipere. Alors vous allez interroger tous les Italiens qui sont passés par Balmaio, ils ont tous mangé des vipères. Ah, quindi bisogna andare a cercare le persone che sono andate a Balmaio che hanno mangiato la vipera. Com'è la vipera? Com'è la vipera? La vipera c'è un gros serpent, Sì, sì, ma sa di quel gusto? C'est la viande, c'est une viande mais elle qui se rapproche du goût du poisson. Assomiglia al pesce. Assomiglia al gusto del pesce. Allora, adesso posso dirvi il balafon, si chiama così anche in italiano. Okay. Ed è la spiegazione è dice strumento a percussione originario dell'Africa centro occidentale, sì, di struttura simile allo xilofono. Ah, ecco, simile allo xilofono, infatti, sì. Ed è di legno. Immagino, sì. Sì, sì, sì, perché lo xilofono è invece di metallo. Sopra c'ha le cose di metallo, però sì, sarà di legno quello. Sì, invece fa pipipipi, vabbè. Ok, va bene. Ok, quindi queste sono delle serate di scambio interculturale che si facevano a scuola. Io mi ricordo anche bene du festival d'africain. Qui se passait tout le temps en Italie. Et ah, c'era anche il festival d'arte africano che si realizza in Italia. Voilà. In effetti, un'iniziativa del COE, Centro Orientamento Educativo, è appunto questo festival di arte africana e anche di cinema africano che è promosso in Italia per far conoscere la cultura e il cinema africano in Italia. Voilà. Quindi se andate a guardare sul sito del COE, Centro Orientamento Educativo, trovate delle attività molto interessanti, delle possibilità di partire all'estero, ma anche delle possibilità di delle attività da svolgere in Italia, delle serate, delle mostre, delle serate di cinema interculturali che sono molto interessanti per chi vuole conoscere le altre culture. Allora, Barbara, dimmi, vogliamo lanciare un'altra canzone? Vogliamo lanciare un'altra canzone oppure io vorrei raccontare una piccola storiella. Racconta, facciamo la musica dopo. Sì, allora passiamo ad un altro stato, quindi abbiamo parlato un po' del Camerun, ma giusto una piccola domanda. Se noi andiamo in Camerun, io e Barbara per esempio, andiamo a fare la vacanza in Camerun, possiamo trovare qualcosa di italiano per non sentirci proprio perse? Spaesate. Tu parles de... Est-ce qu'on peut trouver des produits italiens si on va en vacances au Cameroun? Est-ce qu'on va trouver quelque chose d'italien à manger, par exemple, pour ne pas se sentir perdu avec les bananes plantains et tout le reste? Vous allez trouver les spaghettis. Ah, si trovano gli spaghetti. La tomate italienne aussi. Et i pomodori italiani. Ouais. Ok, veramente indispensabile. Ma il pomodoro italiano è diverso dal pomodoro africano? Il pomodoro italiano è differente? La tomate italienne importée. Oui, mais c'est différent normalement la tomate en Afrique? Oui, certainement c'est différent la tomate italienne, la tomate du Cameroun. Au niveau du goût, c'est différent. Okay. Ah, c'è un gusto diverso. Come i pomodori del Belgio. Sì, è che non hanno gusto. Va bene. Ok, adesso io vorrei raccontare una piccola storia. Grazie Adrian per questo piccolo racconto sul Camerun. Vorrei raccontare una storia un po' tra la realtà e l'avventura che riguarda questi emigrati italiani. Andiamo un po' indietro nel tempo, nel 1800. C'è un italiano, un signore abruzzese che si chiama Salvatore Borsei, che ha fatto un'avventura straordinaria. Dall'Italia è partito a Parigi, poi è andato a Caracas, poi è ritornato in Italia, poi è dovuto fuggire, nel frattempo ha fatto due figli, eccetera, eccetera, e poi a un certo punto, siccome non ha fatto il servizio militare, è dovuto fuggire e ha cominciato a scendere verso sud, fino a quando è arrivato, ha deciso di andare a piedi in Sudafrica. Donc il y a un italien che a 1800 il a décidé de descendre à l'Afrique du Sud à pied. Il est parti d'où? Il est parti de l'Italie. Wow. Il est parti de l'Italie et après il a été à Marseille et après il est allé en Tunisie Quindi dopo è andato in Tunisia, ha attraversato il Sahara, dopo è passato per il Camerun a Douala, poi è andato in Gabon, nello Zaire, nello Zambia, poi è stato per poco sepolto vivo e poi è finalmente arrivato in Sudafrica dopo 12 mesi. Donc il a fait un voyage de 12 mois, de 1930 à 1932. Il est allé à pied en Afrique du Sud. Il n'a pas eu la malaria et il a vécu jusqu'à 84 ans et il est mort en 1969. Wow, impressionnant. Pas de vaccin, rien du tout. C'est Magellan, ça. Tu connais Magellan? Oui, je connais, mais c'est pas lui. Quindi solo per questa è una storia, è un storico, però magari un po' di leggenda in mezzo. Comunque c'è qualcuno che è andato fino in Africa del Sud a piedi. E voilà. E su questo possiamo ascoltare una canzone per riposarci una un po'. Una canzone e lanciamo, vediamo, lanciamo Vinicio Capossela, Le Sirene. Sì. Eccoci di nuovo qui dopo questa canzone che forse non si è sentita molto forte. Adesso Adrien ha proposto di suonare una canzone camerunese. Quindi adesso lanciamo Richard Bona con Sweet Mary, la canzone Sweet Mary. Andiamo, vediamo com'è la musica camerunese. Rieccoci qua, siamo di nuovo in onda con i Colori dell'Anima. Abbiamo ascoltato un assaggio di musica del Camerun, Richard Bona, uno dei più grandi jazzisti mondiali, possiamo dire. Allora, adesso abbiamo... Passiamo a qualcosa, continuiamo a parlare di migrazione, continuiamo a parlare di spostamenti e degli italiani, però in un altro modo, Barbara. Allora, io ho scoperto che c'è una giornalista che si chiama Claudia Cucciarato, italiana, che vive a Barcellona da 5 o 6 anni ormai, e lei ha scritto un libro che si chiama Vivo altrove, giovani e senza radici. Gli emigranti italiani di oggi. E lei, questo libro raccoglie le storie di alcuni tra le decine di migliaia di giovani che negli ultimi anni hanno deciso di abbandonare l'Italia. E quindi sono interessante leggere un po' le storie di tutte queste persone. Ma in più lei ha anche, non ha solo pubblicato questo libro, ha pure iniziato un blog, un sito che si chiama www.vivoaltrove.it, dove si trova appunto questo blog che mantiene aperta la discussione e che raccoglie altre testimonianze di persone italiane che vanno all'estero per lavorare. Quindi si tratta di giovani che attualmente decidono di partire dall'Italia e di spostarsi in altri paesi. Che trovano lavoro, che li parla anche del... perché adesso noi siamo più o meno noi la generazione che siamo cresciuti con queste... le airlines low cost, sì. Quindi è così facile spostarci senza viaggi con valigie piccole, tutto esposti, trovi lavoro velocemente con internet e tutto, quindi parla un po' della nostra generazione. Appunto, infatti ai nostri giorni il concetto di emigrazione è veramente cambiato, sì. Possiamo dire che noi giovani in teoria anche noi siamo degli emigrati, ma in pratica non ci sentiamo emigrati come quelli che partivano prima. Nel 1900, perché prima il viaggio e l'emigrazione significava veramente un distacco radicale dalla totale, propria patria, sì. Totale per lunghi periodi e per grandi lontananze. Oggi, soprattutto nello spazio europeo, ma anche a livello mondiale, grazie a questa grande possibilità di mobilità che noi abbiamo, e anche alla nostra formazione, allo studio, ai vari percorsi come le borse Erasmus, i programmi Leonardo da Vinci, ci sentiamo un po' cittadini del mondo. Giusto. Quindi in realtà, anche se abitiamo in un paese per parecchi anni, continuiamo a sentirci legati al nostro paese d'origine e non continuiamo a spostarci da un posto all'altro come se fosse casa nostra. Giusto, ma anche per la globalizzazione ormai, anche se siamo in un altro paese, ci sentiamo quasi a casa perché possiamo comprare quasi i prodotti gli, sono gli stessi. Possiamo trovare qui la pasta italiana, possiamo trovare tutto quello che c'è nel nostro, ecco, paese. E con questo qua finiamo adesso, sì, il nostro tema. E per finire, grazie mille Adrien per essere stato qui, per le informazioni che ci hai dato, è stato molto interessante. Io ho imparato tanto perché non sapevo del Gabon, già di quello. Meno male che non sul Gabon. No, lo so, però già il Gabon. E il Camerun, la scuola, è molto interessante tutto, quindi ricordatevi grazie che se volete partire una possibilità è quella del COE. Ok. In Italia. Sì. E anche all'estero. E per finire, adesso sì, avrei un annuncio solo da dire che questo sabato, il 6 ottobre, c'è European Job Day alla Commissione. Ah, sì. Quindi a chi interessa, chi sta cercando lavoro, c'è la possibilità di informarsi un po' sui lavori. E infatti il sito è europeanjobdays.eu. E okay, là bisogna registrarsi per poi poter andare per una giornata di colloqui. Giusto. Con le imprese. Sì, esatto. Lanciamo l'ultima canzone, Barbara, concludiamo questa puntata sull'emigrazione, questa puntata internazionale. Ringraziamo ancora una volta Adrien di essere venuto con noi, grazie mille, e salutiamo tutti quanti. Ciao a tutti da Cristina. Ciao da Barbara. E ciao a tutti. Dillo di nuovo perché non si è sentito. No. Ciao a tutti, ciao Adria. Bravo. E adesso salutiamo con Dente, buon appetito. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.